La storia e la memoria di Dino Pesole. Sul rapporto tra la Chiesa, Pio XII e gli ebrei nel periodo dell'occupazione nazista di Roma sono stati scritti molti libri e gli storici sono divisi tra chi parla dei cosiddetti veri o presunti silenzi di Pio XII a proposito della persecuzione degli ebrei e chi invece ritiene che il Vaticano si adoperò, pur mantenendo rapporti diplomatici con l'occupante tedesco, per salvare molti ebrei dallo sterminio. Il prossimo 2 ottobre è in programma presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi una interessante conferenza dedicata a Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale, eventi, ipotesi e novità dagli archivi. Conferenza che si propone di essere un'occasione di incontro e di dibattito tra studiosi ed esperti di varia provenienza per approfondire proprio gli aspetti salienti del pontificato di Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare verranno trattati i temi relativi alla diplomazia vaticana, alla Chiesa Cattolica durante la guerra, il ruolo degli alleati, la Shoah e l'impegno della Santa Sede per la salvezza degli ebrei. In questo quadro spicca appunto il ruolo che ebbero i conventi e la cosiddetta ospitalità clandestina offerta dalla Chiesa. Di questi temi parliamo questa sera con la storica Anna Foa, che svolgerà il prossimo 2 ottobre una delle relazioni alla conferenza. Buonasera professoressa e bentornata. Buonasera, grazie. Da un lato la linea di prudenza che scelse di seguire la Santa Sede durante l'occupazione nazista, oggetto di molti studi, anche critici, se si guarda ai veri o presunti silenzi di Pio XII sulla persecuzione degli ebrei. Dall'altro, connessa in qualche modo a questa linea, seppur non ufficialmente riconosciuta dalla Santa Sede, la questione relativa all'aiuto che venne fornito agli ebrei tra l'8 settembre del 1943 e il giugno del 1944 da parte di singoli religiosi, parrocchie, conventi e semplici cittadini di fede cattolica. Aiuto e sostegno in larga parte spontaneo, non deciso preventivamente dai vertici della Chiesa, ma comunque da essa sostenuto moralmente e materialmente. Professoressa Foa, la conferenza del 2 ottobre costituisce un importante appuntamento per approfondire uno dei temi più controversi della storiografia, cioè si può finalmente cominciare a fare chiarezza su quale fu l'atteggiamento di Pio XII nei confronti della Shoah? Certamente se si apriranno gli archivi forse molte cose verranno chiarite, ci sono molti buchi neri, molti vuoti nella storiografia determinati dal fatto che si procede ormai tutto quello che è stato pubblicato nei documenti pubblicati, tutto quello che è stato detto è contrapposto in qualche modo, ci sono due partiti contrapposti, a questo punto si tratta di andare ulteriormente a vedere negli archivi in modo tale da colmare questi buchi neri e da far risaltare quello che è effettivamente avvenuto. Ecco, e quando dovrebbe avvenire questa apertura degli archivi? Ma io non, per quello che io so, non se ne sa ancora nulla, però il convegno è in previsione della riapertura degli archivi, quindi immagino che sia molto vicina. Ecco, ma la sua posizione sul tema qual è esattamente? Cioè, lei pure si occupa di questi temi da molto tempo. Sì, io mi occupo anche di questi temi. Io credo che la leggenda nera sia assolutamente improponibile, che la leggenda rosa, che punta molto sull'accoglienza, no, sia insufficiente, che ci siano dei certamente silenzi, ci sono stati, la parola stessa di Pio XII, ma c'è stata un'accoglienza coordinata e generalizzata e c'è stata una trattativa fra la Santa Sede e i nazisti occupanti, che è stata una trattativa diplomatica forse portata avanti con ingenuità in qualche modo, forse non fino in fondo, nel senso che la Santa Sede continuava a ragionare secondo schemi diplomatici che erano ormai estranei ai nazisti, ma che tendeva a ottenere il più possibile sul piano della salvezza degli ebrei. E questo aspetto è molto importante, in effetti, non forse non troppo dibattuto, cioè l'aspetto relativo proprio all'attività della diplomazia vaticana. Da questo punto di vista si può immaginare che ci saranno delle novità dall'apertura degli archivi, o almeno lo si può sperare? Ma ci sono sono molte cose che restano inesplorate proprio su questa attività diplomatica, che poi è prevalente, certamente è ormai chiaro, soprattutto dopo il libro di Andrea Riccardi sull'inverno più lungo di Roma nel 43-44, è ormai chiaro che il Vaticano si è mosso, Pio XII si è mosso per salvare la città di Roma, per impedire che divenisse teatro dello scontro fra i nazisti che se ne andavano e gli americani che salivano, e che ha salvato un numero infinito, molto notevole di persone, che i nazisti sapevano benissimo che la Santa Sede li salvava, che c'è stato un gioco, come dire, fra le parti molto complesso e molto in cui poi i nazisti facevano quello che volevano, anche perché dobbiamo pensare che il Vaticano non era così forte, era soggetto a un'ipotesi di essere invaso da un momento all'altro ed era, si muoveva con le sue forze. E questa attività diplomatica è senz'altro interessante, è probabile che non si sia ottenuto molto, ma forse se non ci fosse stata le cose sarebbero andate anche peggio. Questo però non è un discorso storicamente plausibile, però dobbiamo cercare di capire le motivazioni anche dei silenzi. Ecco, in questo complesso intreccio diplomatico, quale fu il ruolo degli alleati? Anche questo è un punto non secondario. Ma le immagini che abbiamo del Vaticano si muoveva sia ovviamente trattando come stato neutrale, trattando con tutti, avendo incontri con gli alleati e incontri con i nazisti, perché c'erano i diplomatici accreditati, resta il fatto che poi il Vaticano era circondato dalle truppe naziste e che Roma era occupato dai nazisti. Quindi in qualche modo, leggendo soprattutto questa storia di Roma sotto l'occupazione nazista, si ha la sensazione che ci troviamo di fronte a due protagonisti essenziali: la Chiesa, unico rifugio in quel momento dei romani, e l'occupazione nazista e i nazisti. Ecco, in questo contesto il suo punto di vista sulla cosiddetta ospitalità clandestina, mi sembra di capire che lei ritenga che sia stata tutto sommato marginale. No, l'ospitalità clandestina non è assolutamente stata marginale, ecco. 5.000 e più ebrei sono stati salvati, sì. Tutti erano nei nascondigli, sono stati salvati soldati che erano sfuggiti alla leva fascista, partigiani, oppositori politici. L'ospitalità clandestina non era tanto clandestina, nel senso che in qualche modo poggiava su questa fitta rete diplomatica, i nazisti sapevano perfettamente che cosa stava succedendo, da un momento all'altro avrebbero potuto intervenire, non l'hanno fatto, e ha salvato moltissime vite umane, ha salvato soprattutto anche moltissime vite di ebrei. Moltissime vite umane, moltissime vite di ebrei, anche in occasione, ricordiamo, della retata che ci fu, quella appunto del ghetto di Roma, che insomma fu uno dei momenti più drammatici, sì, vissuti da Roma. Sì, fu drammatico, e subito dopo le porte dei conventi, anche di clausura, dei monasteri, eccetera, si aprirono con molta larghezza. Le testimonianze qui sono innumerevoli, di ebrei in fuga dalle case che trovavano rifugio nei conventi, e anche lì si ha la sensazione, non c'è certamente una carta che dice, firmata dal Papa, che dica di aprire i conventi, ma un'operazione di tale ampiezza non poteva essere fatta, lo ha dimostrato Riccardi, senza la consapevolezza molto precisa, anzi l'aiuto centrale della Santa Sede. Ecco, in conclusione riparliamo appunto dei temi della conferenza. E ricordo che la mattina ci saranno i saluti del rettore Alessandra Briganti e poi l'introduzione di Edward Husson, poi interverranno appunto Andrea Riccardi e Anna Foa, e poi nel pomeriggio Limone Iaghi dell'Università di Tel Aviv e Matteo Luigi Napolitano. Ecco, questo parterre di esperti, come dire, che tipo di riflessioni anche nuove potrà portare al dibattito? Io sono onorata di far parte di questo parterre e credo che sia un parterre aperto all'innovazione, che non si limiterà a arroccarsi su posizioni difensive, ma andrà oltre le posizioni difensive, cercando nuove strade interpretative, cercando di approfittare della prossima apertura degli archivi per indicare nuove strade interpretative a questa vicenda complessa e anche in gran parte molto mitologizzata. Sì, molto, molto. Sì, molto mitologizzata. Sì. È qualcosa che suscita un'attenzione quasi morbosa. Non c'è conferenza in cui non si alzi qualcuno e dica: ma Pio XII allora? Va bene, allora molte grazie alla professoressa Anna Fo, la ringraziamo molto per questo suo contributo. Buonasera, grazie.